fossi ciò, viene lento di vagare, una musica brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. La cronaca dei giornali questa mattina presenta un clamoroso caso di violazione dei diritti delle donne. Claudio Amore è furiosa, questa TV è volgare, offende le donne. Hanno osato gli autori di X Factor collazionare una foto di lei giovane e fresca, una di lei nella sua versione attuale, appesantita da normale pinguedine data dall'età. Si è infuriata la signora Mori, ha detto questo è un atto di razzismo, un atto di feroce violazione dei diritti delle donne, ha minacciato di andarsene ma poi rimane. Questa mattina molti giornali e molti editorialisti soffermano sui diritti delle donne violate e impugnati in maniera così veemente dalla signora Claudia Mori. Avevo intenzione di parlare questa mattina anche io dei diritti violati delle donne, di violenza nei confronti delle donne. Mi sarebbe piaciuto approfondire ulteriormente il caso della signora Claudia Mori, però trovo lievemente più urgente parlare di un problema che interessa un numero come 140 milioni di ragazze che sono state già mutilate nei loro organi sessuali per un perpetrarsi di una tradizione tribale che vuole che le donne a certe latitudini, in particolare in alcuni stati che poi diremo con maggior frequenza, con maggior precisione il Centro Africa, siano da bambine mutilate, ablate, ricucite, tagliuzzate, tolte da ogni dignità fisica nei loro apparati sessuali. Ogni giorno, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, 6.000 bambine sono sottoposte a questo tipo di mutilazioni sessuali. È un fenomeno che, dato il flusso migratorio, interessa anche casa nostra, accade sotto casa nostra. Sul territorio della regione Lazio vivono circa 20.000 donne provenienti dall'Africa, di queste 10.000 vengono dai paesi nel quale è diffusa la pratica delle mutilazioni genitali femminili. A Roma e provincia le donne a rischio di questa mutilazione sono circa 8.500. Questa è un'indagine dell'Istituto di Medicina Preventiva delle Migrazioni dell'Ospedale San Gallicano di Roma. Questa mattina parlo di un argomento di cui spesso si dibatte, ma su cui c'è una grande reticenza. Se l'infibulazione, se la mutilazione genitale femminile riguardasse, non so, i lobi delle orecchie, le falangi delle dita, le cartilagini del naso, se ne parlerebbe con grande leggerezza probabilmente. Siccome è un atto violento, cruento, crudele, irreversibile, è una tortura che dura per tutta l'esistenza della donna, ma però interessa l'area genitale, nei confronti della quale esiste una grande pruderia, un grande riserbo, un grande fastidio a parlarne, se ne parla molto poco volentieri. Questa mattina avverto qual è l'argomento, le persone sensibili di udito e di sentimenti, se vogliono non ascoltino, però il problema c'è e esiste realmente. Carla Pasquinelli, buongiorno. Buongiorno. Carla Pasquinelli è un'antropologa, docente di antropologia culturale all'Università degli Studi di Napoli, l'Orientale. Ha scritto un libro sull'infibulazione, Infibulazione e il corpo violato, Meltemi 2007. Di cosa stiamo parlando? Ma guardi, intanto la maniera come lei l'ha presentata mi preoccupa, perché lo presenta in una maniera che allarmistica. La violazione, certamente l'infibulazione e le altre mutilazioni genitali femminili, che se vuole le posso anche elencare, ma insomma non è molto importante, sono delle mutilazioni genitali. Diciamo esterne, che riguarda l'area genitale in varie gradazioni, la donna viene tagliata, scissa e ricucita, a seconda della latitudine. C'è la clitoridectomia, che è la tipologia più lieve, in cui si tratta così di dare un taglietto sul clitoride. Lei la farebbe a sua figlia? Ma che domande? No, Stavo dicendo che sono allarmista, che è una violazione dei diritti umani, quindi è qualcosa che non va fatto. Però, essendo una pratica che riguarda 140 milioni di donne, come lei ha detto, e 3 milioni di bambine a rischio ogni anno di essere operate, chiamiamole mutilate, È una pratica, quindi, come lei ha detto, tribale, diciamo, una pratica culturale diffusa appunto nei paesi dell'Africa subsahariana, con una punta verso nord, Sudan e Egitto. Intanto era una pratica che era diffusa anche nell'antica Roma. Qui poi attraverso l'Egitto è andata nell'Africa subsahariana. Sono pratiche di società animistiche e non hanno niente a che vedere con la religione, perché per dire quello che sono bisogna dire anche quello che non sono. Non sono una pratica islamica, sono una pratica diffusa in tutte le religioni presenti in quell'area. Parliamo di tutta quella fascia che va dal Sudan fino, come dire, all'Etiopia, all'Eritrea, insomma la Somalia, eccetera. E l'unica cosa che certamente sono diffuse in religioni diverse, culture diverse e etnie diverse. La fanno i cattolici, la fanno i cristiani, la fanno i cristiani copti, la fanno le chiese protestanti, la fanno gli ebrei falascia, quindi non ha niente a che vedere quindi con la diciamo religione. Non esiste, e questo mi sembra un dato molto importante. Se non è una pratica legata a un'imposizione religiosa, come ad esempio è la circoncisione, che non altera le funzionalità, è comunque no, comunque anche quella è una mutilazione. È una mutilazione, diciamo, agli organi sessuali. Le mutilazioni sono sempre quelle degli altri. Esattamente, ma sono perfettamente d'accordo con lei. Ho grande rispetto per le pratiche religiose, è comunque una mutilazione. Tagliare il prepuzio a un bambino è comunque una mutilazione. Provoca naturalmente delle conseguenze certamente meno gravi di quelle che provocano le mutilazioni genitali femminili, che sono soprattutto quelle più gravi, quelle che riguardano l'infibulazione, perché se vuole le continuo la tipologia, abbiamo detto clitoridectomia la più lieve, escissione quella la seconda tipologia, la classificazione dell'OMS che riguarda l'asportazione del clitoride e il taglio, a volte asportazione delle piccole labbra, a volte anche delle grandi labbra. La più grave per l'appunto è l'infibulazione, che è diffusa nel Corno d'Africa, quindi in Somalia, Eritrea, Etiopia e poi nella Nigeria del Nord. Ecco, questa è una pratica terribile perché provoca delle conseguenze che più gravi nel corso della vita delle donne. Consiste nel taglio delle piccole labbra, nell'asportazione o meno della clitoride, dipende da chi lo fa, nel taglio delle piccole labbra, spesso anche delle grandi labbra, e poi la raschiatura per quello che resta delle grandi labbra, e le vengono cucite. Queste grandi labbra vengono accostate e suturate. In Africa, in area tribale, lo si fa con le spine di acacia, perché non dimentichiamo che questo si fa in una situazione dell'Africa subsahariana, che sono territori sterminati, in cui non ci sono strade, non ci sono telefoni, non ci sono comunicazioni, ecco. Mentre in area urbana, in quelle zone dell'area urbana, ormai da alcuni anni si tendono a fare in ospedale. Quello che viene nel corso di questa, e quindi suturandola in maniera con gli strumenti, diciamo. Ecco, abbiamo capito con l'intervento comunque graduale. L'ultima cosa, sì, prego. Che viene lasciato naturalmente, mentre viene fatta questa cosa, viene inserito un piccolo tubicino in modo da lasciare un'apertura da cui non più grande di un chicchio di miglio, di riso o di grano, da cui defluirà la urina e il sangue mestruale. Ecco, con questo abbiamo spiegato tutto. C'è da dire che naturalmente la donna quando partorisce deve essere scucita, poi viene ricucita. Deve essere deinfibulata e poi viene ricucita. Molto spesso viene rinfibulata, perché questa è una pratica che va affrontata come pratica culturale. Ci sono molte pratiche culturali violente di società patriarcali nei confronti delle donne. Io vorrei soltanto una cosa chiedere, dottoressa, visto che abbiamo detto la parte clinica, con questo l'abbiamo esaurita, perché molti si preoccupano del fatto che indulgiamo poi su un aspetto cruento. È questo, altro di questo non si tratta. Quello che però mi interessa capire da lei, dal suo punto di vista, qual è la motivazione per cui le donne non è fatta questa cosa, se non è un motivo religioso, se non è una tradizione legata comunque a... Guarda, che non lo giustificherebbe secondo me, però... È molto semplice. Detto in termini antropologici, diciamo che è una costruzione dell'identità di genere, è qualcosa che avviene in ogni cultura, no? Anche noi c'è la costruzione dell'identità di genere, noi è come dire un processo simbolico, appena nasce un bambino maschio si mette il fiocco azzurro, si fa il corredino di quel colore, appena nasce una bambina si fa il rosa, quindi si costruiscono modelli di crescita diversi. In queste situazioni l'identità di genere viene costruita manipolando fisicamente i corpi, il bambino viene circonciso, le ragazze vengono sottoposte alle mutilazioni genitali femminili. Perché? Perché una donna, una non operata, non infibulata, non escissa a dovere, non trova marito, nessuno se la sposa, perché queste pratiche hanno come unica cosa, tutte queste 28 società dell'Africa subsahariana in cui è presente questa pratica, c'è anche un'altra usanza che è collegata in maniera stretta, che è il prezzo della sposa, cioè mentre da noi c'era la dote, no? Con cui la famiglia della sposa dava alla sposa una sua parte sulle sue eredità future, insomma, eccetera, in questi paesi c'è il prezzo della sposa. Cos'è il prezzo della sposa? È una serie di beni, in genere in bestiame, perché sono società pastorali o da oggi in area urbana in denaro, non per comprare una moglie, una donna, ma per compensarla della perdita che viene data dalla famiglia dello sposo alla famiglia della sposa. Questo è chiaro, ci fermiamo solo un secondo, Teresa, scusa, perché innanzitutto vorrei invitare chi ci ascolta di chiamare all'800240024, so che abbiamo molti ascoltatori comunque per nascita e per frequentazione legati alle aree che stiamo trattando, molti altri saranno magari interessati a capire come viene affrontato da un punto di vista istituzionale questo problema, però vorrei dare la parola un attimo a un'altra nostra ospite, Marian Ismail, che è presidente dell'Associazione Donne in Rete per lo Sviluppo della Pace, è somala. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ha sentito quello che abbiamo detto finora, penso che probabilmente ha qualcosa da aggiungere lei, più legata per nascita ai luoghi dove si fa questa pratica. Sì, certamente. Io credo che il tema non può essere trattato se non si ha il coraggio di capire esattamente il significato delle mutilazioni genitali femminili. Tutto il resto diventa una serie di orpelli giustificativi, tale per cui conducono innanzitutto a una mitizzazione laddove si fanno le mutilazioni genitali femminili nelle società culturalmente, come dire, la tradizione, e dal punto di vista poi delle culture che ci accolgono nell'Occidente c'è un grande spaccamento. Cosa mi consente, io le dico la mia posizione, io sono contrario a giustificare con una sorta di relativismo culturale quella che è una tortura che dura per tutta la vita nei confronti di una donna. Assolutamente, guardi, io cerco di essere molto pacata e scientifica su questo, quindi ci sono due grossi blocchi di persone che dicono, delle aree di pensiero che dicono il relativismo culturale, e quindi deve essere un approccio, come dire, onnicomprensivo, e dall'altra parte c'è invece una posizione di completa chiusura e rifiuto. Ora, perché ho fatto questa premessa? Per dire semplicemente che fin quando noi non riusciamo a parlare delle mutilazioni genitali femminili come un controllo sessuale della donna, e quindi questo controllo sessuale della donna è così cruento, è così infamante, è così pesante, non risolveremo mai poi, come dire, il problema alla radice. Io trovo, trovo che esista, poi lei me lo conferma vivendo il clima di questa cosa, una paura terrificante da parte degli uomini di quello che è la natura femminile. Tagliarla, ucciderla, mortificarla, anestetizzarla significa uccidere la paura per la donna. Le donne infibulate sono donne che non hanno più controllo della loro sessualità, e l'uomo quindi può essere tranquillo che le può dirigere, comandare, sottomettere in qualsiasi maniera. Io non ho un taglio particolarmente femminista nella mia esistenza, ma sono sempre profondamente indignato da quando sento che in Occidente qualcuno dovrebbe avere comunque sulle spalle una civilizzazione che perlomeno è passata oltre a questo tipo di idee, passi comunque come un'usanza comprensibile, ripeto, quella che è una tortura irreversibile nei confronti di milioni di donne. Prego. Assolutamente. assolutamente, sono d'accordo con lei, ma è una visione maschile. Anche qui c'è da insomma, da togliere il mito sul fatto che siano gli uomini a controllare la sessualità della donna. Sono le donne stesse, è una pratica femminile, fatta in un ambito femminile, portato avanti da un matriarcato femminile, quindi pensato al femminile. Ecco perché fin quando noi non capiamo alla radice il problema, qualsiasi intervento sarà sempre vano e vanificato. L'uomo non sa neanche come è fatta una donna, perché gli arriva, per quelle culture, già sistemata in questi termini. E non lo saprà mai per tutta la vita, non si renderà mai conto cosa certo, sia una donna. Certo, non sa prima com'era, sa solo dopo com'è. E la donna comunque, come dire, nella sua alterazione si rende conto, forse la coscienza di essere una cosa irreversibile. Poi non parliamo delle complicanze, abbiamo parlato dell'operazione, abbiamo parlato di che cosa succede, ma c'è una tale variante di complicanze che è terrificante e non si finisce con la procreazione o nel momento di fecondità femminile, ma stiamo adesso qui in Italia, in Europa, in Occidente, affrontando quella che è l'area della menopausa e dell'anzianità delle donne che hanno subito questo problema. Quindi, posso interromperla un attimo, scusi dottoressa, vorrei far parlare un'ascoltatrice, Micol, che chiama da Rovigo. Buongiorno. Salve Nicoletti, è un piacere parlare con lei. Allora, io sono una giovane donna africana, volevo soltanto intervenire. Africana di dove? Perché dal Congo. Il Congo naturalmente non è toccato da questa pratica, forse no, la zona nord. No, volevo soltanto dire che è una pratica che si fa purtroppo in una piccola parte dell'Africa, che è la parte subsahariana. Come motivazione dicono che è un modo per purificare la donna, perché da quelle parti lì tutti gli uomini sono circoncisi e dunque è un modo per loro anche, è detto la circoncisione per le femmine. Sì, però lei capisce che non è paragonabile. No, non come operazione. No, neanche un po' una pratica orrenda che va fermata, ma purtroppo sono le donne che le fanno sulle donne. È una cultura che è stata che è nata lì. Io la volevo soltanto dare una piccola esperienza. Dalla parte dove vengo io non si fa l'infibulazione, si fa piuttosto le stigmate su tutto il corpo, perché una donna bella deve essere ferita. Vabbè, deve anche le ragazze italiane si mettono piercing ovunque, questo sì. Fa parte delle pratiche ornamentali, di modificazione certo, ornamentale certo. Del corpo. Non vorrei assimilare le due pratiche, perché ripeto, sì. Questa è una pratica irreversibile. No, volevo soltanto fare notare il sì. Fatto che la donna è sempre stato l'oggetto sia del desiderio, sia di tutte queste pratiche orrende, che sia in Africa, che sia nel mondo intero. E queste pratiche vanno fermate. Purtroppo siamo noi donne che ci dobbiamo ribellare, noi e no donne, perché sono sempre. Posso fare una domanda, Micol? Perché lei è africana, anche se il Congo non è toccato da questa pratica, forse la parte nord, dove confina con gli stati centrafricani, ne ha avuto più esperienza. Perché ci fa capire oggi, anche nel contatto che avete con un altro tipo di civilizzazione, non dico che sia migliore, perlomeno certo. Rimaniamo inorriditi di fronte a questa cosa, ne faremo anche delle nefandezze peggiori. Perché sì. Anche in situazioni di immigrazione c'è questo legame forte di rimandare le bambine magari in Mali a fare la pratica, a farle infibulare, certo. Non vedere l'ora di mandarle alla nonna e si tornano cucite. Come mai, secondo lei? Perché le stavo dicendo che è una cultura che è stata messa nella testa di quelle donne lì, perché dicono che una donna che ha subito l'infibulazione rimane fedele tutta la sua vita e dunque è un modo, una cultura, un modo di essere. Ecco perché li mandano dietro. Anzi, venendo qua non sapevo che qua in Italia per esempio la circoncisione era illegale. Ecco, io per esempio se un domani ho un figlio mascolo e devo mandare a casa mia per fare la circoncisione, perché così... Ma questo non credo, guarda, che la circoncisione maschile viene praticata normalmente, non credo che... Però negli ospedali non è più praticata, è una cosa illegale adesso, e dunque è una cultura. E su questo, guardi, su questo sospendo un attimo il giudizio, non è materia mia, ma io penso che un'operazione di fimosi che viene fatta normalmente possa essere praticata, e quindi siccome esistono praticanti religiosi che lo fanno per religione, penso che non sia illegale sugli uomini. Illegale sicuramente la mutilazione genitale femminile. Melog 2.0. 800 24 0024, parliamo questa mattina dell'infibulazione, delle mutilazioni genitali femminili, che è un problema che riguarda un numero molto elevato di donne. È un problema che lambisce anche le nostre città, i nostri paesi, le persone che lavorano con noi, che vivono al nostro fianco e vediamo ogni giorno. Vi faccio un piccolo riassunto delle reazioni generali del pubblico. Stanno chiamando tantissimi uomini che vogliono parlare della circoncisione. Una volta tanto, vorrei evitare di rimettere sempre in mezzo i problemi degli uomini, è un altro tema, se vogliamo ne parliamo, ne parleremo, magari non subito, perché molti ascoltatori, soprattutto su Facebook, pensavo che il pubblico più tecnicamente avanzato nell'uso dei mezzi di comunicazione digitali fosse un po' meno incline a certe conclusioni, ma dicono: perché parli di questa roba, preferivamo sentir parlare di Claudia Mori, non è questo un argomento che ci va ad ascoltare, se continuate così spengo la radio, e via dicendo. Mi rendo conto che l'argomento sia molto pesante, ma ogni tanto bisogna parlare anche di argomenti pesanti. Ancora altre persone mi contestano i dati, dice: tu stai dando i numeri, ma ho davanti veramente una relazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Mi sarebbe piaciuto approfondire anche l'aspetto legislativo e normativo, che ho comunque qua riassunto e posso citarvi. Stiamo cercando in maniera disperata l'onorevole Suad Sbai, con cui avevamo preso un accordo ieri. Il suo telefono è sempre staccato. Se qualcuno ha motivo di sentire questa trasmissione e di ricordare appunto l'onorevole parlamentare, deputato, presidente delle donne marocchine in Italia, che ha fatto parte appunto della commissione salute e immigrazione, che era stata istituita nel 2007 presso il Ministero della Salute, di rispondere alla nostra chiamata, perché è fondamentale avere anche un suo contributo che dà attualità e soprattutto senso di appartenenza, anche un problema che ci riguarda, a quello di cui stiamo parlando. Però introduco un ospite che finora non ha parlato, che è Silvana De Mari. Silvana De Mari, buongiorno. Buongiorno a voi. Silvana De Mari è una nostra attenta frequentatrice, abbiamo più volte chiamata, è una grande esperta di letteratura fantasy e è autrice di un libro, Il gatto dagli occhi d'oro, è un libro per ragazzi che ha come tema appunto l'infibulazione. Come le è venuto in mente di toccare un tema così difficile da trattare? Io sento un grande senso di disgusto anche nelle persone più politicamente avanzate, più socialmente sensibili rispetto a questo problema, come se non ci riguardasse. Io sono un chirurgo, ho avuto a che fare la prima volta con l'infibulazione nell'ospedale di Busciulo, in una zona bellissima, e si damo, nel Chiappe meridionale, dove l'infibulazione non è mai esistita, ma c'erano profughi che venivano dal nord, e quindi io mi sono trovata con questa giovane donna che era stata richiusa dopo il parto, il tutto si era infettato e i tessuti erano gonfi e quindi né il sangue mestruale né l'urina potevano uscire, e lei aveva nell'addome un'enorme vescica, stava per morire di insufficienza renale perché i reni non potevano più funzionare, e aveva questa enorme palla di sangue mestruale marcito. Ero in una sala operatoria, sono sale operatorie African style, quindi era una stanza normale con i finestroni chiusi delle zanzariere. Per l'ennesima volta ho riaperto la vagina di questa giovane donna che sarebbe morta di lì a qualche mese di insufficienza renale e infezioni, e alle mie spalle sulle zanzariere si sono avventati gli avvoltoi, attirati dall'odore del sangue marcio e attirati da questo odore di morte, di putrefazione, che invece veniva dal ventre vivo di una donna viva. E le trova questa sia una situazione replicabile comunque anche alle nostre latitudini, cioè donne che noi vediamo per strada, donne che magari ci assistono ai lavori di casa, potrebbero trovarsi in situazioni del genere? Certamente, e l'infibulazione si sta diffondendo. Su internet, tra l'altro anche sul mio blog, ci sono le fotografie della scuola di Bandul in Indonesia, dove l'infibulazione non è mai esistita in Indonesia, come non è mai esistito il velo fino a 20 anni fa, e c'è una capillare campagna per diffondere. Le bambine sono infibulate nella scuola media. Immagino, dopo scontato, che sia l'infibulazione quella più leggera, dove si deve solo la clitoride, non l'infibulazione faraonica propria della Somalia, di cui trovate una descrizione agghiacciante a pagina 43 del meraviglioso libro L'infedele di, della scrittrice somala Ainer Siali. Mi fermo un attimo perché sì, non vorrei parlare... se no vengo accusato di avere, sì, una sorta di gusto macabro nell'indulgere nei particolari scabrosi. Abbiamo perfettamente capito di cosa si tratta, vorrei fare un passo avanti e riferirmi a quello che è l'humus in cui si continua a perpetrare questa pratica anche nelle contaminazioni fra culture. Lei cosa ne pensa, Silvana De Mari? Penso penso che la parola contaminazione e decultura sia molto politicamente corretta. Noi cerchiamo di convincerci gli uni con gli altri di non essere di fronte al problema religioso. È un problema religioso, riguarda l'Islam. Solamente in alcune zone dell'Etiopia, della Nigeria e del Senegal questa pratica si è contagiata anche a culture cristiane e in alcune zone dell'Etiopia anche a culture ebraiche, ma si tratta di minoranze. Per esempio l'infibulazione è diffusa in Bandul, in Indonesia, grazie a denaro che arriva dall'Arabia Saudita. Il problema fondamentale che noi dobbiamo capire è che cosa fa un dolore di questo genere su un bambino. Se mi date un paio di minuti, non di più, per parlare di anatomia e fisiologia, capisco che non sia eccessivamente divertente. No, ma non è una trasmissione medica, abbiamo capito perfettamente allora cosa succede. Allora mi dia 60 secondi. Sì. Il dolore non è un dato oggettivo. Il dolore è portato dal punto dove noi abbiamo male, per esempio l'ustione, al cervello da una via ascendente, ma c'è una via discendente che lo modula. La collera, per esempio, annulla il dolore. Se io sono molto arrabbiata, posso combattere anche contro qualcuno, non mi accorgo dei pugni. Le endorfine, se il mio Dio mi ama o se mia madre mi ama, annullano il dolore. La vergogna lo moltiplica. Quando io vengo colpito, quando un bambino viene colpito con dolore, senza una colpa precedente, che c'è vergogna, è una struttura talmente grave che può essere addirittura un danno epigenetico. Cioè la genetica sono i cromosomi, l'epigenetica è come i cromosomi si esplicano. Dove ho avuto un trauma di questo genere, se ho il cromosoma che mi porta l'informazione che io posso avere, mettiamo il cancro, mi aumenta il rischio di cancro. Gli ormoni da stress sono altissimi, per tutta la vita ci sono delle modificazioni che restano. Per esempio una bambina che è stato torturato da bambino ha una tolleranza del dolore più basso. Noi pensiamo più alto, tanto allenato. No, il contrario, più basso, anche quando va dal dentista soffre di più. Inoltre, se un bambino torturato, una bambina torturata, ha una maggiore possibilità di perdere le capacità empatiche. Le donne sono diverse dai maschi, sono stupidaggini che siamo uguali, siamo diversissimi. E le donne hanno maggiori capacità empatiche, perché altrimenti lasceremmo crepare i nostri figli senza dargli del latte, senza cambiargli il pannolino. I maschi hanno meno capacità empatiche, perché altrimenti non potrebbero fare. La devo fermare soltanto un attimo, perché ci sono degli uomini che hanno chiamato. Li farei parlare e poi rifarei un giro con gli ospiti che hanno ascoltato finora, che hanno parlato in prima parte. Piero da Piacenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei è senegalese? Allora, sì, sono galese. Grazie di avermi chiamato. Mi scusate un po' se l'italiano non è perfetto. Sì, sì, l'ascolto, guarda, però, l'ascolto con attenzione. Sì, guarda, io vorrei un po' raccontare la mia esperienza di queste pratiche. In Senegal è uno stato dove si pratica l'infibulazione? Sì, sì, si praticava molto, molto, negli anni passati. Però in 2012 avevo partecipato a un programma del Ministero della Salute, siamo andati nei villaggi senegalesi, abbiamo fatto delle indagini per sapere quali erano le cose e conseguenze di questa pratica. Allora, come hai detto la donna di prima, le cose principali erano solo culturali, perché a quell'epoca lì non si poteva immaginare mandare... Il suo giudizio qual è, Piero? Scusi, lei, in quanto senegalese, in quanto figlio di questa terra, di questa tradizione, qual è il suo giudizio? Guarda, non si può dare cifre esatte. No, il suo giudizio, cosa ne pensa lei? Non voglio dare cifre. Che effetto le fa pensare a questa cosa? Io penso, per un paese come il Senegal, il fatto era solo legato alla cultura. Perché non si può immaginare, negli anni passati, mandare suo figlio in matrimonio senza che lei sia vergine. Perché la donna procura alla famiglia la dignità, l'onore, sì, il rispetto. Ho capito, Piero, però lei ha sentito quello che hanno detto i nostri ospiti, sono vari punti di vista. Secondo lei è un bene o un male per le donne essere infibulate? Gliel'ho detto in maniera molto basica. Sì, assolutamente, è una pratica da cancellare. Questo era la cosa che volevo sentirle dire. Omar da Milano, buongiorno, algerino. Sì, pronto, buongiorno a lei e al suo interlocutore. Sì, io prima voglio complimentarmi con la dottoressa che è intervenuta prima, che era molto, credo che era molto colta, ben informata sul problema, intanto per il fatto che ha specificato che la mutilazione delle donne c'entra con la cultura e non con la religione, invece la circoncisione c'entra con la religione. Io da algerino adesso non so... Però scusi, da algerino, io non voglio... Se mi scusi, Se le do una martellata forte, anzi un colpo d'accetta nelle sue parti morbide, e le dico lo faccio per religione, le cambia qualcosa rispetto al trauma che le provoca questo colpo d'accetta? No, non ho sentito la sua domanda, no. È un paradosso. Se io le do un colpo di accetta, di ascia, in una sua parte molto sensibile, e le dico lo faccio perché è un uso culturale o una usanza o un imperativo religioso, questo cambia qualcosa al suo dolore? Sì, per me cambia, non per il dolore. Per me la religione è una cosa santa, è una cosa sacra, è la parola di Dio. E so che se Dio ci chiede di fare una cosa, nella mia fede, è per il nostro bene, non per il nostro male. E se Dio non ci chiede di fare una cosa, non è che per un male, ma una cosa che possiamo anche evitare. La circoncisione, per questo che mi ha un po' incuriosito. Io dico, ma lei parla degli uomini, io sto parlando di quello che fanno le donne, però è diverso. Sì, quello che fanno le donne non posso giudicare. Le donne occidentali mettono della plastica dentro il loro seno. Sì, non posso giudicare se è un bene o un male, perché non è una cosa, non sono un medico, non ho studiato in questo qui, non posso giudicare in qualcosa che non è nel mio campo. E io per dirgli il fatto che io questa della mutilazione delle donne sono a 18 anni, ho lasciato l'Algeria, sono quasi 22 anni che sto qui in Italia, la prima volta che ho sentito la mutilazione delle donne è in Italia. Sì, ma perché in Algeria non si pratica, è chiaro, non si pratica in Algeria, questo dobbiamo dirlo, non è una pratica che è comune in Algeria, non è solo in Algeria, è come in Italia. Ne ha sentito parlare perché, se Dio vuole, esiste una possibilità, una libertà di porre sul tavolo i problemi. Melog 2.0 800 24 0024, stiamo cercando per quanto possibile, visto che il problema è complesso, il problema è articolato, il problema tiene conto di un'infinità di accezioni, di parlare di mutilazioni genitali femminili. Lo facciamo rispettando tutti i punti di vista, mantenendo fermo il nostro punto di vista, che torturare un essere umano è qualcosa che va contro profondamente alla natura dell'umanità stessa. Avevo in prima parte della trasmissione due ospiti, Carla Pasquinelli, che è docente di antropologia culturale all'Università degli Studi di Napoli l'Orientale, e Marian Ismail, che è presidente dell'Associazione Donne in Rete. Io concluderò la trasmissione nei minuti che mi rimangono con voi due. Carla Pasquinelli. Sì, voglio dire brevemente tre cose. Ribadire questo fatto che, come ha detto peraltro la persona, l'algerino che è intervenuto, non è una pratica islamica, per l'appunto nel Maghreb non si fa in tantissimi paesi islamici. L'Islam arriva, questo è importante, se no si fa di tutto erba un fascio, stereotipi, certo. No, ma pericolosi, perché voglio dire. Allora, l'Islam arriva nell'Africa subsahariana nel 1050 d.C., mentre queste pratiche sono pratiche che stanno in loco almeno da 4.000 anni, perché come dicevo all'inizio sono pratiche animiste. Si chiama faraonica non a caso, penso. No, faraonica, infibulazione, allora viene da fibula, dal latino, no. E ci dice che nell'antica Roma la fibula era una spilla che era applicata al corpo delle giovani schiave, quindi era una pratica che era presente anche in area mediterranea. Non solo, in realtà questa, la cosa terribile che nessuno sa, ma bisognerebbe forse saperlo, che dal 1800 fino al 1925 è stata praticata l'escissione in Europa. Lo abbiamo detto pochi giorni fa parlando appunto della protochirurgia plastica, che no, non era la chirurgia plastica, sì, sì. In Europa nell'Ottocento, che era fatta appunto da una medicina una pratica clinica per curare disordini psichici e comportamenti devianti. Se lei mi fa finire, esattamente questo, abbiamo fatto una trasmissione che parlavamo delle anticipazioni alla chirurgia plastica. In questo ambito è stato detto che veniva considerato un rimedio all'isteria femminile, appunto agendo sull'utero e sulla parte, utero in senso lato, diciamo, nella parte femminile, si pensava che con questo sistema si togliessero delle patologie. Era una cosa perversa. Allora, siccome gli diamo un nome diverso, era una mutilazione terrificante che è stata anche nel cuore dell'Europa. Vorrei tornare poi comunque a questo, quando ha detto Miriam Ismail, che è vero che le donne, sono le donne a gestire, sono le madri a gestire l'infibulazione, ma è anche vero che un uomo, qualsiasi uomo, non è disposto a sposare una donna se non è operata, se non è stata o infibulata o escissa, perché le due cose stanno insieme. È una società patriarcale che controlla la sessualità femminile, riportandosi a che cosa? Quello che diceva all'inizio, il prezzo della sposa, cioè quello che che viene dato in cambio di che cosa? No? La dote viene data in occasione del matrimonio, e questo brutto nome, prezzo della sposa, è un nome che hanno coniato gli antropologi, che è molto stigmatizzante ed è certamente non piace a nessuno. Diciamo che è la dote rovesciata, nel senso che va la famiglia dello sposo lo dà alla famiglia della sposa in cambio di che cosa? Di una donna in moglie per il proprio figlio, ma non una donna qualsiasi, ma una donna infibulata o escissa, una donna mutilata, altrimenti la malcapitata, se non lo è abbastanza, viene rimandata la notte stessa delle nozze alla famiglia di origine. Quindi vedete che è una pratica, quello che è importante è di non demonizzarla, è una violazione dei diritti umani, cercare di capirne i significati, grazie anche a un rapporto con le donne che si sono aperte, sono state molto coraggiose nell'affrontarla, e per poterla cambiare bisogna conoscerla, non si può trattarla solo come una pratica orribile o come una pratica culturale così in quanto tale, le culture si sa, le sue bizzarrie. Sì, ma noi siamo perfettamente consapevoli, sono perfettamente consapevoli che è radicata in un insieme di rapporti molto difficili e molto articolati, questo non voglio radicalizzare come oggi spesso si fa, barbare contro civiltà, figuriamoci, so esattamente su quali pilastri cedevoli poggia la nostra cosiddetta civilizzazione, questo sono d'accordo con lei, però non vorrei nemmeno avere l'impressione diversa che abbiamo una sorta di capacità di classificare tutto in qualcosa che comunque fa parte di culture diverse, quindi in qualche maniera sì, va compreso ma va anche tollerato. Ecco, questa è una cosa molto cattolica, che comprendere uguale tollerare. Ecco, esattamente. Comprendere sì. Significa capire per cambiare. Per cambiare bisogna capire la situazione, sapere dove agire. Su questo sono molto d'accordo con lei. E l'emigrazione può essere un'occasione per mettere in discussione, perché anche noi capiamo, solo se ci si muove, se si incontra anche altre culture, si riesce a capire le cose che non vanno bene nella propria. Marian Ismail, ha detto la dottoressa, l'immigrazione può essere una grande occasione. Ecco, in che maniera? Praticamente e concretamente, visto che non siamo riusciti ad avere al telefono l'onorevole Suad Sbai. Guardi, l'immigrazione è assolutamente positiva, perché sono state le donne immigrate che hanno partecipato alla formulazione della legge nazionale, perché bene ricordare, l'onorevole Sbai non c'è. Sì, mi dispiace molto, perché diciamo che il lato istituzionale era importante, non evidentemente. Non è un problema, io stesso ho fatto parte della commissione parlamentare per redigere appunto la legge e trovare, come dire, la quadratura del cerchio. Ecco, quindi ce la riassuma se possibile nel minuto e mezzo che rimane il punto di vista concreto su questo argomento. Ma guardi, il punto di vista concreto è che le donne africane erano già consapevoli del danno fatto sul proprio corpo. Non nasce con l'immigrazione, non nasce con la contaminazione culturale con l'Occidente, ma basta ricordare che nel 1942, ad esempio, in Sudan, anzi nel 1946, ci fu la prima legge contro le mutilazioni dei genitali femminili, quindi assolutamente è un percorso di emancipazione delle donne africane che l'hanno voluta chiamare così e non con altri termini devianti come circoncisione, eccetera, eccetera, e io credo che siccome sono state le culture matriarcali a imporre, e mi dispiace contraddire Carla Pasquinelli, ma l'uomo veramente è una figura sullo sfondo. E però diciamo che è una situazione che di comodo in cui... Mi prendo anch'io la mia fettina. Prego. Allora, dico solo questo, ci sono nelle aree della Somalia uomini che impazziscono a sposare donne non infibulate, perché sono presenti anche nelle nostre comunità e nelle nostre culture aree di donne preservate da questa orribile pratica. Se ci addentriamo in questi meandri non se ne esce più, è una violazione del diritto della donna ad avere un corpo integro. Finalmente l'anno scorso a dicembre il protocollo del Cairo più 5, quindi la dichiarazione africana, ha sancito che finalmente le mutilazioni genitali femminili sono riconosciute come violazione del diritto della donna. Quindi, e questo mi sembra, non per cattiveria o per sadismo, la interrompo, ma perché mi chiedo la linea, devo chiudere la trasmissione, mi sembra che questo sia un punto perlomeno fermo, che c'è stata una presa di posizione certa anche dal punto di vista degli africani. Non è detto che sul tema ci possa ritornare, se qualcuno mi chiederà. Ringrazio Antonella Migliaccio e Paolo Corleoni, ci sentiamo lunedì. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111.